Buonasera Chiesa, che bello essere insieme come famiglia e appartenerci. Eh? Sì. Proprio, è l'espressione della gioia. Devi fare l'applauso a chi ti sta a fianco, perché quella è la tua sorella, quello è il tuo fratello e gli devi dire: io sono felice che sei qui e insieme adoriamo e amiamo il Signore. Siamo così preziosi l'uno per l'altro. A questo il Signore ci ha chiamato. E sappiamo che stiamo vivendo un momento molto, molto particolare, che noi, sai, come i politici, lo chiamiamo con una parola che si capisce e non si capisce: la transizione. Ma quello che noi stiamo vivendo è che un altro prenderà la responsabilità come pastore della Chiesa. E questo non perché io sono stanco, assolutamente. Mia moglie dice: più fai vecchio e più diventi pieno di vita. Io ho la gioia e io ho l'amore di servire il Signore in qualsiasi maniera, e questo io continuerò a fare. Però è anche necessario che la Chiesa abbia una guida per questa generazione, per questi momenti e per questi modi, possiamo dire. Ecco perché noi stiamo facendo questo, non perché io non lascio proprio niente di servire il Signore, anzi io prendo ancora di più, ma la guida spetterà a un altro. Ed è per questo che io voglio dare una parola che è nel mio cuore per tutti quanti noi questa sera, che ha a che fare con la chiamata, con come il Signore ci chiama, in che modo ci chiama. Ma prima di tutto vorrei citare un passo, e questa è la mia raccomandazione a tutti quanti noi, è il Salmo 105 al verso 4. Il salmista dice: cercate il Signore e la sua forza, cercate sempre il volto del Signore. In ogni situazione, in ogni momento, in tutto quello che stai vivendo, cerca il Signore. Come si cerca il Signore? Come cerchi qualsiasi altra cosa. Se hai perso una moneta, che fai? Scopi, che ne so io, ti metti in ginocchio per terra, contro luce, cerchi di fare di tutto per trovare quello che hai perso. Cerca il Signore, usa tutti i mezzi che hai. La preghiera è la più potente. Appartati, fatti delle passeggiate con Gesù, ma cercalo. Cercalo, perché questo darà vero senso alla vita che noi viviamo oggi in questa società. Anzi, il Signore dice di più di noi, e io voglio leggere insieme a voi un passo dove il Signore, pur avendolo detto al popolo di Israele e più in maniera più specifica a Giacobbe, lo dice a noi oggi. In questa società. Leggiamo da Isaia al capitolo 43, dal verso 1 al verso 5, credo. Ma ora così parla il Signore, il tuo Dio, creatore o Giacobbe. E io qui vorrei fermarmi. Tu non hai un Dio. Io non ho un Dio. Ci sono tanti dei oggi, ognuno se lo fa a propria misura, ma noi che crediamo che abbiamo l'Iddio creatore del cielo e della terra, noi abbiamo l'Iddio che ha mandato il suo unigenito figliuolo Gesù a salvarci. Questo è l'Iddio che noi abbiamo, e questo noi dobbiamo sbandierare. Colui che ti ha formato, o Israele, non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Dovrebbe andare oltre. Perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Io ho dato l'Egitto come tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto, perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Io do degli uomini al tuo posto e dei popoli in cambio della tua vita. Non temere, perché io sono con te. Io ricondurrò la tua discendenza da Oriente e ti raccoglierò da Occidente. Tu sei mio, dice il Signore, io ti ho chiamato per nome. E questo lo ha detto a Giacobbe, ma lo dice anche a noi oggi, adesso. Vedete, ha cambiato il nome. Io ho scoperto che noi facilmente possiamo raddoppiare come persone, quindi persone in cerca della salvezza. L'ho scoperto questa sera, quando Gianluca ha nominato quelle due o tre persone. Ha detto che domani sera pregheremo con quelle. Ma chi sono? Sono Luis e Milly, tanto per intenderci. Che poi gli cambi il nome, non raddoppia la persona. Io non lo so come si chiamano, Luca mi ricordo, però il resto mi dovete perdonare, non per me, restano loro, loro sono, è la persona. Quindi il Signore cambia anche il nome. Vedete, Giacobbe, il significato del nome Giacobbe ha un doppio significato, è un nome che si presta a due significati. Uno è, significa tallone, perché Giacobbe, quando è nato, era un gemello e lui teneva per il tallone il fratello che è nato prima. E quindi ecco, da quello gli hanno dato il nome Giacobbe. Però significa, mettendo un accento diverso sul termine, il significato cambia e diventa soppiantatore, colui che prende il posto di. E infatti Giacobbe, diciamo con alcune manovre, lasciamolo stare come sono, ha preso la primogenitura da parte del padre invece di Esaù, il suo fratello, tra virgolette, maggiore, anche se era... se era gemello, e lo ha chiamato, gli ha cambiato il nome, dice: tu non sei più Giacobbe, tu ti chiami Israele. E Israele, il significato di Israele è molto bello, è colui che combatte con Dio o per Dio. Gesù ha chiamato un lottatore, il Signore Dio Onnipotente ha chiamato un lottatore, ha chiamato te e ti ha dato un nuovo nome. Come ti chiami? Israele, lottatore. Amen. Lottatore. Sei un combattente come lo è stato Israele, cioè Giacobbe. Ha dovuto lottare. Noi ci possiamo riconoscere andando a leggere la vita di Giacobbe. Vediamo che lui è dal primo momento, già da quando è nato, si è sforzato di venire al mondo. Poi, quando ha soppiantato il fratello, se n'è scappato, è fuggito. Poi, tornando, doveva essere ucciso dal fratello. Perché? Perché insomma, aveva imbrogliato. Ma il Signore lo aveva guidato a dire: non andare con la forza, vai con l'amore che io metto dentro di te. E infatti Giacobbe si è presentato al fratello non mostrando tutta la sua forza e tutto quando lui era diventato grande in paese straniero, ma ha mandato avanti dei doni, i bambini e le donne. E questo ha mostrato il suo carattere. E il fratello non solo lo ha perdonato, lo ha accolto e lo ha riconosciuto. Vedete? Vedete, questo è quello che il Signore fa con noi, quello che Lui vuole fare con noi, ma è una lotta, è stata una lotta continua. Noi tendiamo a vedere sempre la lotta in tutto. Noi siamo chiamati a lottare. Che difficile la vita, è vero? Poi di questi tempi, la crisi, la politica, e ci carichiamo noi. E poi se vai a vedere, in casa viviamo sereni, tranquilli, e tutto va bene. Non ti caricare di quello che non ti appartiene. Vivi Gesù in ogni situazione e questo ti porta alla vittoria. Ieri eravamo a mezzogiorno, l'ho detto stamattina, a pranzo in casa con i miei figli e con i nipotini, e c'è stato Elijah, quello che nominava prima, e che ci ha fatto una bella lezione. E lui ci ha detto, ma l'ha chiesto al papà e poi anche a tutti gli altri, ma tu sei positivo o negativo? Insomma, il bicchiere come lo vedi, mezzo vuoto o mezzo pieno? E ci ha fatto, e ci ha mostrato, che noi dobbiamo vedere veramente sempre il mezzo pieno, per quanto poco possa essere, ma quel poco nelle mani del Signore è una grande abbondanza. Perciò Lui cambia il tuo nome, Lui cambia il tuo nome e ti chiama, ecco, a questo noi siamo chiamati, ad ubbidire a quello a cui il Signore ci chiama. Probabilmente questa sera ti chiama ad aprire completamente il suo cuore a Lui, quello è il tuo nome. Ti chiama, come abbiamo sentito prima, ad avere forse più fede. Sovvieni alla mia mancanza di fede. Quello è il nome che il Signore Gesù ti sta dando, perché quello vuole realizzare con la tua vita. Ti chiama, ti può chiamare a tante cose. E quello è il tuo vero nome. Io posso dire la mia testimonianza di me, di mia moglie. Io so di mia moglie molto bene, più avventuroso che il mio. Stava ascoltando una predicazione del fratello Andrea, Contrabbandiere di Dio, no? Abbiamo letto il libro. E a un certo punto il predicatore ha detto due frasi che hanno toccato mia moglie. Non si voleva alzare, si è trovata in piedi all'appello. Non si voleva alzare e si è trovata in piedi perché ha detto: tu o sei missionario o sei campo di missione. Noi in questa società o siamo missionari di Dio, chiamati a testimoniare dell'amore e della salvezza del Signore Gesù, o vuol dire che dobbiamo pregare che qualcuno venga a noi per parlarci dell'amore di Dio. Scegli tu. E poi diceva anche un'altra cosa a mia moglie. Quello che tu stai facendo è il posto dove sei. È esattamente quello che Dio vuole da te? Io so solamente che mia moglie ha detto: per piacere, non in Cina. E il Signore l'ha mandata in Italia. E la sua vita è una grande testimonianza. Vedete, però non solo, ma è probabile che il Signore ti mette nel cuore di andare al vicino e fare un semplice gesto di aiuto. Quella è la chiamata di Dio per quel momento, per te, per noi. Quello è il nome che il Signore ti dà e ti sta affidando. Ma vogliamo andare anche oltre, anche se io anch'io da ragazzo, quando ho sentito tante cose, e poi io ho detto: Signore, accade quello che accade, io ti voglio servire. Io ti voglio servire, punto e basta. Mi ha chiamato a fare il pastore? No, non mi ha chiamato a fare il pastore, perché non sapevo nemmeno, avevo 25 anni, 26 anni. Adesso so fare il pastore, adesso che lo so fare. Che bello, questa è la multicolore grazia di Dio per noi. Adesso che un pochino che l'ho imparato, il Signore dice, non dice siediti, questo è il guaio. Dice continua, ma in un'altra maniera. E questo il Signore dice a tutti noi, io so che mi ha chiamato a servire. E non a fare una cosa o l'altra. E io mi sono messo a servire quello che c'era da fare. Quello che c'era da fare. C'era da aiutare quelli che testimoniavano di Gesù. E io aiutavo per montare le tende, per pittare le sale, per fare tante di quelle cose. E così in un qualche modo me ne vado ancora così. C'è Antonio Altamura in mezzo a noi? È là dietro. So fare il ragazzo? Ascoltiamo la risposta. Un po'. Sei unico. Non ha importanza, fratelli e sorelle, in che cosa serviamo. Importante che quello che stiamo facendo sia per l'avanzamento del regno di Dio. Puoi essere a mettere a posto una sedia, come puoi essere chiamato ad andare a testimoniare di Lui alle folle. Puoi andare in missione come i nostri, lui, Semmilli e Marta e gli altri della famiglia. E puoi essere chiamato a stare nella tua strada, ma dovunque sei, tu sei la luce del Signore. Se solo permetti al Signore di apparire tramite il tuo esempio e quello che vivi di Lui. Ma di più, io voglio mostrare questa sera in maniera molto semplice, perché per me è importante la chiamata. E sì, è vero che dobbiamo comunicare quello che è la transizione, quello che è il cambio che deve avvenire, però io vorrei lasciare ancora di più proprio questa impronta che noi siamo chiamati a servire, a prescindere. Qualsiasi cosa stai facendo, anche se stai sbagliando, la parola di Dio dice che il Signore è capace di tramutare il male in bene. L'errore in una grossa vittoria per il Signore, perciò opera per il Signore. Perciò opera per il Signore, perché a questo noi siamo chiamati. Vedete, per dire... Fare l'esempio più conosciuto, la chiamata dei discepoli. Come sono stati chiamati i discepoli di Gesù, i 12 apostoli? Non è che erano persone così speciali, uno era pescatore, uno era addirittura, come definirlo? Matteo, come definirlo? Un ladro autorizzato e riscuoteva le tasse, ne riscuoteva anche di più. Allora, vedete che non è... Poi, è che poi non dimentichiamoci che c'era pure Giuda a fianco, Come li ha scelti? Per esempio, se vedete alcuni esempi, Gesù ha guardato soprattutto al cuore, non alle capacità. Gesù guarda dentro e così ha incontrato Pietro, Simone e Andrea, suo fratello. E sapete perché ha scelto loro? Perché erano disponibili, erano disposti. Ha chiesto a loro, per piacere, ci allontaniamo un poco con la barca affinché io posso predicare alla folla. E quelli lo hanno fatto. Non hanno detto, sai, ma adesso è l'ora di andare a pescare, adesso è l'ora di rassettare le reti, adesso dobbiamo pulire la barca. No, erano disponibili. E per la loro disponibilità Gesù li ha scelti. Così anche Giovanni, in Luca 5, Giovanni e Giacomo, suo fratello. Perché li ha scelti? Perché prontamente hanno lasciato le loro reti e la loro barca e sono andati. Ma se andiamo in Giovanni al capitolo 1, leggiamo per esempio una storia incredibile. Filippo, Filippo, non è che si conosce più di tanto di Filippo. E è scritto che Gesù, mentre andava in Galilea, incontrò quest'uomo Filippo e gli disse: seguimi. E quello lo ha seguito. Si sa di lui, di Filippo, si sa solo che era della città di Betsaida, la stessa città di Pietro e Andrea. Niente di più, forse era una città che produceva bene. E Filippo, camminando, ha incontrato forse un suo conoscente, forse un suo amico, un parente, non lo sappiamo, Natanaele. E Natanaele è quello che disse: ma può venire qualcosa di buono da Nazaret? E parlava di Gesù. E lo portò a Gesù. Però Gesù poi lo ha dovuto accettare. E lo ha accettato. E perché lo ha accettato? Se andate a leggere, vi rendete conto che Gesù, parlando di Natanaele, disse: finalmente un israelita onesto. Lo ha scelto perché ha visto il suo cuore, l'onestà del suo cuore, non per le sue capacità, non perché sapeva fare, ma semplicemente per l'atteggiamento di Natanaele. E così possiamo continuare con tutti gli altri discepoli di Gesù. Uno ad uno, non di tutti è raccontato, però queste semplici cose ci mostrano come Gesù non va in cerca della pietra preziosa, va in cerca della pietra che vuole rendere preziosa. Va in cerca di me e di te, con tutti i nostri difetti, con tutti i nostri peccati. E lui vuole renderci una vera, la sua perla, la sua testimonianza, dovunque siamo. Ecco perché chiama. Vedete, noi non ci possiamo nascondere, come si suol dirsi, dietro al dito: ma io non sono capace, ma io non ho mai sentito, ma io la chiamata di Dio non l'ho mai sentita. Mi spiegate come si fa a sentire la chiamata del Signore? Nessuno di noi lo sa, ognuno di noi ha un'esperienza diversa, ognuno di noi ha un'esperienza diversa. Vedete, anche la persona che il Signore ha messo anche nel mio cuore di prendere il pastorato qui, non è perché abbiamo buttato la monetina in aria, non è perché abbiamo valutato le sue capacità, ma semplicemente perché il Signore ha dato una chiamata sulla sua vita. E noi, e la Chiesa, e lo Spirito Santo ha confermato tutto questo. E perciò lui potrà fare quello che il Signore lo chiama a fare, per la chiamata. Per la chiamata. Ecco perché noi siamo, possiamo dire, diversamente chiamati. Noi siamo i diversamente chiamati. Ognuno di noi è chiamato a qualcosa. Chiamare. Gesù, nel chiamare i suoi discepoli, ha osato e rischiato. Ed è vero, ha osato. Perché non è che li conosceva più di tanto. In funzione di quello che vedeva nel loro cuore, li ha presi, li ha scelti, li ha affiancati a lui. E non è che loro sapevano fare più di tanto, e quante cose hanno fatto non in maniera logica e giusta, ma affiancavano Gesù. Se affianchi Gesù, qualsiasi cosa tu vai a fare, lo farai al meglio, perché è il Signore che lo farà, lo tramuterà nel meglio per il regno suo. Ha rischiato, certo che ha rischiato. Rischiamo anche noi nel dire sì. Se io vedo anche tutta la squadra, quanti elogi potrei fare per tutta anche la squadra pastorale, che la gran parte sono della lode, tutti, ma è incredibile quello che c'è, come hanno investito la loro vita per l'opera del Signore. Li conosciamo. Sara ha scelto di servire i giovani invece che diventare psicologa. È più che psicologa, ve lo dico io. E Noemi, che insegnante grande che abbiamo, il Signore dà doni. Così potrei continuare. Con Stefano ho rischiato io, a dire il vero. Con Stefano ho rischiato io, ma non è così, perché il suo cuore era grande per l'amore di Dio e il Signore ha fatto qualcosa di grande per ognuno di noi. E in maniera anche diversa, ma questo posso dire di tutto. Ho voluto solo nominare alcuni dei ministri di questa chiesa. E sono i più bravi? No, sono quelli che vivono come i discepoli. I discepoli erano i più bravi di quelli che seguivano Gesù? No, erano perfetti? No. Vi ricordate, se prendiamo uno ad uno, Pietro non lo ha rinnegato nel momento più difficile della vita di Gesù? E Tommaso, che voleva mettere il dito, perché se no non avrebbe, dopo che era stato, aveva visto miracoli e potente operazione, voleva mettere il dito, perché altrimenti non avrebbe creduto. Non ha dell'incredibile questo? E così possiamo parlare anche di Giacomo e Giovanni. E Giacomo e Giovanni siamo noi. Questi, solo perché non furono accettati bene con gli allori dai samaritani, vanno a Gesù e dicono: Signore, vuoi che facciamo piovere fuoco e fiamme e li distruggiamo tutti? Un po' assomigliano alle nostre preghiere, no? Signore, tu conosci mio marito, benedicilo! E c'è tutto in quella frase, e c'è tutto quello che vorremmo esprimere. Signor, tu sai, mi rimetto nelle tue mani, però intanto abbiamo già detto. Vedete, non è quello. Gesù li ha scelti, Gesù ti ha scelto perché ti conosce dentro. E da quello vuole fare e vuole compiere una grande opera attraverso di tutti quanti noi. Sentire di essere chiamati o essere chiamati è soprattutto non ascoltare la chiamata di questo secolo, di questa società, di questo mondo. Perché questa società chiama molto forte con i suoi appelli, chiama alle sue cose. Non è difficile ascoltare la chiamata di questa società a servirla, a fare quello che ci vuole far fare, perché dietro c'è il diavolo. Dietro, questo è il vero diavolo. Questo è il vero diavolo. Quello che attenta alla nostra salvezza, alla nostra vita con il Signore. Perciò io voglio dire, anche questa sera, se hai ascoltato che in un qualche modo, anche un termine, hai avvertito che il Signore vuole completamente il tuo cuore per amarlo, per servirlo, fallo, prendi la decisione, perché lì è la tua vittoria. Giacobbe ha potuto vincere non perché era più capace, ma perché ha scelto di servire il Signore. Noi vinciamo quando scegliamo di servire il Signore, è ovunque e comunque. E io voglio terminare questa questa parte, perché poi la serata è in un qualche modo, sotto certi aspetti, speciale, perché dobbiamo comunicare chi prenderà il pastorato in questa chiesa. E perciò ho voluto dire, se l'avessi detto all'inizio, ormai non mi ascoltavate più. Invece alla fine è meglio, e vi tengo un poco in suspense per questo. Come chiama il Signore? L'ultimo aspetto, molto semplice. Il Signore chiama attraverso quello che tu senti. Come abbiamo già detto, se il Signore ti parla di fede, ti sta dando il nome fede, vuol dire che la tua fede vincerà per Lui. Se il Signore ti chiama a perdonare, quello è il nome che il Signore ti sta dando, e quella è la chiamata per te, perché attraverso il perdono tu conquisterai molti per l'opera e per la salvezza del suo nome. Il Signore ti chiama attraverso quello che tu ascolti, e il Signore chiama attraverso i nostri doni. Qual è il tuo dono? Dici, io non so fare niente. Anche quello è un nome, lo sapete? Anche quello è un nome. Vi ricordate la storia, se non l'abbiamo studiata a scuola, l'abbiamo visto nei filmati, di Ulisse che approdò in un'isola, raccontiamola così semplicemente, e incontrò Polifemo, il gigante con un occhio solo. E subito gli domandò, dopo averli preso, tu come ti chiami? Come disse Ulisse? Nessuno. Quando poi Ulisse accecò Polifemo e potettero con tutto il suo team, la sua squadra, scappare, allora accorsero in soccorso a Polifemo, gli altri giganti, e dice, chi è stato? Nessuno. Vedete che anche un non nome è un nome. Tu proclami, che cosa? Io non so fare niente. E quello stai proclamando sulla tua vita. Metti a disposizione di Dio il dono che hai. Leggiamo nella Bibbia, negli Atti degli Apostoli, che c'era Tabita, che sapeva cucire. E cuciva tuniche, e probabilmente vestiva tutti i discepoli, e probabilmente li vendeva, e con quel ricavato sosteneva l'opera del Signore. Non c'è un serviere specifico, speciale. C'è un servire unico, che è quello a cui il Signore ti ha chiamato. Perciò dici sì al Signore, a prescindere, dici sì. Dici sì quando hai sentito che devi accettare Gesù nel tuo cuore, quando hai sentito che il Signore ti sta chiamando a sostenere uno. Dici sì e il Signore realizzerà una grande opera. Questo era quando io volevo trasmettere, però adesso dobbiamo passare anche al secondo aspetto, ed è quello di comunicare, che com'è? Zitto zitti in mezzo alla piazza, già tutti quanti o la gran parte lo sa, ma la cosa più bella è quello che io voglio dire. Come ho detto prima, la scelta non è caduta per caso o per doni o per qualsiasi altra cosa, ma perché il Signore veramente ha indicato non solo a me, ma anche all'intera squadra. In accordo abbiamo costruito tutte le tappe da percorrere, e lo Spirito Santo veramente ci ha soccorso in tutto questo. E ancor di più di tutto questo, quello che ancor di più era importante per me, la conferma che è venuta realmente tramite i vostri foglietti dove io ho chiesto, avete ricevuto un pensiero da parte del Signore, una parola profetica, ecco viene mia moglie, perché vuole dire anche qualcosa, perché poi io, va bene, se no gli tolgo quel che devo dire, deve dire, allora smetta adesso. No, non devi dire più. Allora, per farla breve, è Mirko. Io credo che noi aspettavamo già questo, ognuno di noi, la gran parte che lo hanno detto, che mi hanno parlato, lo dicevano già, perché ci sono state profezie e visioni e conferme da parte di molti nella Chiesa. Ma Sofì vuole dire qualcosa di particolare? Il versetto che abbiamo sentito dice così: non temere, perché io ti ho chiamato, io conosco il tuo nome. E questo vale per noi tutti. Mirko, il Signore ti ha chiamato, non temere. Come lo so che lui è stato chiamato? Per tutta la storia della sua vita, se poi lo volete sentire, venite a me, non lo vado a dire adesso. E il Signore ha visto il suo cuore e ha iniziato a servirlo con i giovani, lo sappiamo tutti, generazione scelta. Poi è andato in Australia e lì ha sentito, credo, una chiamata speciale. Poi ce lo devi raccontare. Quando è ritornato ha detto: non voglio più darmi ai giovani, ma voglio servire la Chiesa. È iniziato a aiutare mio marito. Dopo questo ha servito il gruppo di Mottola. E abbiamo anche visto, il Signore ti ha chiamato. E voglio dire a tutti quanti, voi siete tutti chiamati, tutti quanti. Che cosa rispondi? Mirko ha detto sì al Signore. Io ho detto sì al Signore, e vi posso garantire che non era facile salutare i miei, lasciare il mio buon lavoro, vendere la mia macchina che avevo già, per andare, per guadagnare, servire il Signore è un'avventura. Ma il Signore dice a te: non temere. Perché? Perché io sono con te. E quello che noi abbiamo, quello che io ho sperimentato è: il Signore è stato e sarà sempre con noi. Questa è la garanzia. Un'altra cosa, scusami. No, io non ho messo la mano. Volevo solo sostenerti. Chiesa, siete un popolo scelto dal Signore. Adesso c'è un cambio. Un cambio che piace, un cambio che è incerto, un cambio che non mi piace. Abbiamo questi pensieri. Il Signore dice: io vi ho scelto, Chiesa, vi ho scelto affinché andate e portate molto frutto. Il motto. Chiesa, state davanti a una nuova fase. Non temere. Non temere. Perché io sono con voi. Anche noi rimaniamo, eh? Anche noi non ce ne andiamo. Ma sopra di tutto, Dio è con noi. E quando noi abbiamo Dio, abbiamo tutto. Questa è stata sempre la nostra preghiera per i nostri figli. Non abbiamo pregato per un lavoro. Non abbiamo pregato che possano guadagnare tanti soldi. Abbiamo pregato e detto: Signore, Tu ci hai dato 3 maschi, 3 servi del Signore. Fa che loro possano incontrare Te e servire Te, perché se hanno Te, hanno tutto. Questa deve essere la preghiera di noi tutti. Chiesa, non temere. E come siete stati sempre per noi, dal primo momento, avete sempre pregato per noi. Noi vi vogliamo chiedere, da oggi in poi, volete pregare per Mirko? Non è facile, ma se lui ha il Signore, se lui vive con il Signore, se lui viene guidato dal Signore, noi tutti approfittiamo. Vogliamo amarlo, vogliamo rispettarlo, come avete fatto con noi, così anche a lui. Sì? Amen? Ok, grazie. Puoi anche rimanere. No, puoi anche rimanere. Vogliamo pregare, anzi, prima di pregare, vorrei, anzi, Mirko può pregare per noi questa sera, così. Però io vi devo già comunicare una cosa, che già Mirko, pastore Mirko, che devo imparare pure io, ha preso già una decisione su di me. Ha detto, logicamente non come lo dico io, ma in altre parole, ha detto: allora tu andrai a Mottola. Allora, mi dispiace per i mottolesi, perché mi dovranno sopportare. Ma questo non sarà nemmeno per un lungo periodo. Perché? Perché ci sono veramente delle persone così speciali e così belle e che amano così tanto il Signore, che il Signore tirerà fuori il meglio da loro. E quindi noi preghiamo anche per questo. Allora vogliamo invitare Mirko a venire e anche Gianluca per concludere. E così, un altro buco, eravamo tutta la famiglia qui sopra. Sì, ci possiamo alzare in piedi. Io sono emozionato. Però preghiamo. E Signore Gesù, noi ti ringraziamo di cuore perché possiamo servirti. Noi tutti come Chiesa, noi tutti come individui abbiamo l'onore e il privilegio di servire Te che sei il Dio Altissimo. E di questo privilegio noi vogliamo fare il nostro motivo di vita. Ogni giorno vogliamo alzarci per fare la differenza, per distinguerci in questa società, per dire che un Dio è vivo e Tu sei vivo, per cambiare la storia di questa nazione. Padre, noi preghiamo per la nostra Chiesa in questo tempo nuovo, affinché come Chiesa possiamo alzarci più che mai, come mai abbiamo fatto prima d'ora, per proclamare che Tu, Gesù, sei il Signore, che tu sei potente oggi da fare miracoli e che tu salvi, guarisci, liberi e trasformi le vite. Grazie, Padre, per il servizio che insieme possiamo fare. Grazie per il servizio che ancora insieme possiamo fare con la coppia pastorale che tu ci hai dato. E noi vogliamo benedire questa nuova stagione per loro, vogliamo benedire questa nuova stagione per noi, vogliamo benedire questa nuova stagione per me e anche per Mottola, Signore. E dovunque tu ci chiamerai, Padre, noi vogliamo andare, vogliamo servirti e vogliamo onorare il tuo nome, Gesù. A te la gloria e l'onore. Amen. Amen. Amen. Amen.